Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Allora, l'unica cosa chiara, mai invitare più di un ingegnere in studio, perché stanno toccando tutti i tasti e stanno sbagliando tutto. Comunque siamo a Nova Lab 24, Luca Tremolada, Pierangelo Soldavini direttamente con lui, buongiorno. Mandiamo subito le news, che vi abbiamo a raccontare una storia di sviluppatori che hanno vinto un premio Vodafone, Microsoft, insomma interessante, le news. La maturità sull'iPhone. L'idea è di studenti.it, il portale del gruppo Banzai. Ma sgombriamo subito il campo. Non ci saranno i temi della maturità. Sul sito si potranno sfogliare materiali vari, dalle prove di esame complete svolte negli anni precedenti agli appunti su tutte le materie, passando per le utili guide su come affrontare al meglio i giorni dell'esame, fino ad arrivare alla possibilità di contattare uno psicologo online e ovviamente di confrontarsi con altri maturandi nei forum della animatissima community di studenti. Raggiunta una luminosità record nel più grande acceleratore di particelle del mondo, il Large Hadron Collider, LHC, al CERN di Ginevra. I fasci di protoni che corrono ad una velocità vicina a quella della luce, nell'anello da 27 km della macchina, non sono mai stati così ricchi. Contengono infatti ben 13 pacchetti di particelle. Soddisfazione da parte degli scienziati che stanno raccogliendo a pochi mesi dalla partenza più dati di quanto si attendessero. Il record, però, informa il sito LHC Italia, è stato raggiunto al termine di un fine settimana difficile. Boom di connessioni al cellulare. Secondo il rapporto Audi Web di aprile, 32 milioni di italiani, il 66,8% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, ha accesso ad internet. Rispetto a un anno fa, le connessioni da casa tramite computer crescono del 20%, 29 milioni di individui quest'anno, e quelle da mobile ben del 62,9%. Allora, loro sono Marco Cavone, Raffaele Bisogno, Tommaso De Pace e Stefano Francabilla, sono tutti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea specialistica in ingegneria informatica del Politecnico di Milano. Adesso hanno tutti cambiato canale, capito? Giustamente, no, scherzo. E hanno vinto AppStar, hanno vinto la competizione italiana di AppStar, hanno creato un'applicazione che si chiama Cool Travel. Dico bene? Sì. Cavone. Chi è Cavone? Eccomi qua. Oh, ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Apps Traveling, quindi Cool Travel, è un'applicazione che ha vinto sia la parte italiana che... Abbiamo vinto, siamo classificati primi nella competizione italiana dell'App Star, quindi siamo approdati alla fase finale, competizione europea, e ci siamo classificati secondi. Una notizia di qualche giorno fa, è stato bellissimo, un'esperienza unica. E siete soddisfatti? Sono contento di essere arrivato due, no? Come si dice? Arrivato due, beh, primi sarebbe stato sin troppo bello. Allora, sentiamo la scheda che racconta un po' chi siete e cosa fate. Finora hanno complessivamente vinto 50.000 euro. Loro sono quattro studenti del Politecnico di Milano. Su YouTube li potete vedere in giacca e cravatta che spiegano il business plan di Cool Traveling. Grazie a questa applicazione hanno vinto AppStar, il concorso di Vodafone, e sono arrivati terzi classificati nella competizione europea. La scelta, forse non casualmente, raccontano, prese forma un uggioso giorno di novembre nella caotica stazione di Cadorna, dove si trovavano a transitare al ritorno dalla sede del Politecnico di Milano Bovisa. In quella cornice di tipico caos milanese, aggravata a causa dell'ennesimo sciopero dei mezzi di trasporto, sembrò loro di grande utilità poter portare la tecnologia il più possibile vicino alle persone in viaggio. Allora, avete capito bene, sono 50.000 euro. Ebbene, no? Sì. Ebbene, spero, ebbene, tutti sì. Contenti, non sono in giacca e cravatta come nel video di YouTube, che in cui sembrano anche fin troppo un po' stirati, pettinati. Qua sono belli contenti. Sì. Ma avete già ricevuto qualcosa? O? Ma sì, qualche proposta sia interna all'università che anche da altre aziende che collaborano con Vodafone. C'è arrivata proposte di sviluppare altre applicazioni. Ma il tempo, come si sa, non è tantissimo. Adesso contiamo. No, io pensavo i soldi, scusate. Ah, dei soldi. I soldi ci stiamo pensando. Beh, visti non li abbiamo ancora visti, perché comunque un po' di tempo. Stanno parlando di idee, così tu subito sui soldi. Vabbè, cioè, nel senso, stiamo sviluppando innovazioni, sì, idee, vabbè, ma infatti sono qui per parlare di innovazioni, sono qui perché hanno preso 50.000 euro, lo ridico un'altra volta. E non è facile, perché noi avevamo chiesto inizialmente finanziamenti in vario modo, ma non è mai stato così semplice avere contatti e persone che investissero su dei giovani studenti e non con grande possibilità. Vodafone ha dato questa opportunità e quindi adesso avete ringraziato lo sponsor, siete stati bravi e tutto quanto. Adesso però soldi non ne avete visti e ci spiegate com'è questa applicazione. Poi Soldavini dirà se ve la siete meritato o no i soldi. Come diceva appunto prima lo speaker che parlava della nostra idea, noi abbiamo pensato di portare i viaggi, le persone che vogliono viaggiare, più vicine alla tecnologia. Quando uno sta viaggiando non ha un computer a portata di mano, quindi non può consultare 4-5 siti, Trenitalia, piuttosto che i siti degli aerei, guardare il meteo, i bed and breakfast, non riesce a vedere tutte queste cose. Noi abbiamo pensato di unirle tutte in un unico servizio e portarlo sul mobile, ovvero sui telefoni. Quando uno viaggia, c'è uno sciopero, ti hanno cancellato l'aereo, bene, prenotiamolo subito in un altro modo, vediamo se il mio treno ha un ritardo o vediamo se dove sto andando c'è un bel tempo o se il bed and breakfast mi costa poco o tanto. E questo in tutto il mondo per quanto riguarda gli aerei e in Italia con treni, aerei, bed and breakfast e meteo. E questo è buono, insomma, è spiegata bene. È stata la nostra idea, quello che volevamo fare. I dati li prendete dai siti delle aziende? Sì, molto gentilmente prendiamo questi dati, non ne facciamo alcun scopo di lucro, quindi semplicemente li riforniamo alle persone nello stesso modo in cui li recuperiamo, quindi non ci guadagniamo nulla sopra. Perché loro, mentre c'erano i microfoni spenti, Soldavini, per cui non lo volevano dire, però insomma fanno un po' fatica a poi chiedere il permesso alle aziende per utilizzare questi dati. Non sono gli unici, peraltro, nel senso che la grande cosa è che però, tra l'altro, voi siete assolutamente in un territorio franco e amico. La cosa che noi andiamo dicendo più volte, sia su Nova 24 che in radio, è insomma, se dei ragazzi si inventano delle applicazioni utilizzando dei dati, le aziende dovrebbero essere più che felici, magari investire sui giovani che stanno facendo. Soprattutto torniamo su un tema vecchio di Nova, cioè i dati pubblici, per cui i dati che alcuni considerano privati e che tengono chiusi nel cassetto, invece nell'epoca digitale probabilmente più sono pubblici e più vengono sfruttati e più diventano possono diventare valore aggiunto. Insomma, Per noi sarebbe veramente bello poter collaborare apertamente con queste aziende, però non è mai facile. Che dati vorresti? Dai, facciamo un desiderata. Ad esempio poter tranquillamente prelevare i dati dei vari treni immediatamente senza doverli recuperare noi manualmente, quindi avere accesso diretto ai servizi che utilizza sia Trenitalia piuttosto che gli altri servizi italiani che usano gli aerei, i bed and breakfast allo stesso modo, i servizi meteo. In questo modo noi ci risparmieremmo un gran lavoro e potremmo andare un servizio alle persone ancora più di qualità, più tempestivo e immediato. Qualche azienda che vi ha detto no assolutamente? Dai, ma se lo dite diventate famosi. Lascio parlare Tommaso, allora, che è qui con me. Quindi Tommaso, gli avvocati andranno da Tommaso. Perfetto, sto scherzando. Gli avvocati hanno contatto diretto con me. No, ma non è che abbiamo ricevuto un no, non abbiamo ricevuto alcuna risposta, che è diverso. Che è anche peggio. Che è anche peggio, noi eravamo lì in attesa dopo aver contattato e non ricevamo alcuna risposta. Allora, in merito, quindi... perfetto, noi teniamo questo appello, poi lo facciamo girare sui nostri potenti mezzi di informazione e lo scriveremo magari anche su Nova, anche perché domani esce Nova 24. Adesso che facciamo... parla esattamente di turismo e di cose virtuali, però di innovazione, ma di innovazione come sempre su Nova. Parliamo di innovazione un po' più hardware, diciamo così. Parliamo di meccatronica, che tu mi spieghi che cos'è, o spieghi agli ascoltatori. Avete presente Gundam? Ecco, cioè è l'insieme dell'elettronica e della meccanica. Ecco, detto sinteticamente. Lo sapevate voi? No, ma fanno quei bambini, capito? Loro vengono da ingegneria, sono ingegneri, ma non sanno che cos'è la meccatronica. Insomma, è tutto ciò che è meccanica mischiata con l'informatica, con la robotica, ed è una nicchia, noi l'abbiamo già raccontato più volte su Nova, è una nicchia molto specialistica dove ci sono delle aziende leader mondiali. Per esempio ti posso fare un esempio che citiamo in questo paginone. Tu hai mai tagliato qualcosa con l'acqua? No. Nel senso. Cioè, tu hai fatto solo buchi nell'acqua. No, cioè. detto papale, ma ci sono aziende, c'è un'azienda che ha fatto un getto d'acqua talmente potente che riesce a tagliare qualsiasi materiale, anche le pietre dure, come se fosse burro praticamente. Quindi sono innovazioni di questo tipo e anche loro ovviamente hanno sentito la crisi in quest'ultimo anno. Ma la cosa sorprendente è che abbiamo trovato che in qualche modo avevano già delle innovazioni già pronte e hanno potuto mantenere alto soprattutto il livello di esportazione Semplicemente tirando fuori dal cassetto delle innovazioni che avevano già dei brevetti, delle innovazioni che avevano già. Ecco, facciamo una rapida, abbiamo ancora un minuto prima della prima interruzione, facciamo una rapida carrellata di altre cose che ci sono su Nova, perché così almeno cerchiamo di carpire il pubblico giovane che sono loro. Voi lo leggete Nova? Sì, certo, bravi, vedi? Sì, sì. Hai visto? Fanno finta. No, è evidente che fanno ma finta. Ma per esempio, per poter sognare, cioè un pannello fotovoltaico, adesso questo sapete che cos'è, un pannello fotovoltaico, che sta a 30.000 km sopra le nostre teste e che poi raccoglie l'energia e la trasmette Wi-Fi sulla Terra, potrebbe essere una cosa che secondo voi ha senso? L'energia Wi-Fi è un po' difficile da trasmettere. Però c'è già, ci sono già degli esperimenti, stanno già provandoci e con dei buoni risultati. Scontro generazionale, Soldavini contro gli studenti del Politecnico di Milano. Nova Lab 24. Salutiamo Pierangelo Soldavini che è dovuto scappare, restiamo con i ragazzi del Politecnico di Milano, anzi facciamo di più, ci colleghiamo con Raffaele Galliero, team leader di Error 404 ed è il team leader, come si dice, della squadra che ha vinto la Microsoft Imaging Cup 2010 della Facoltà di Informatica dell'Università Federico II. Ed è tutto giusto, Raffaele? Giustissimo. Perfetto. Allora, sentiamo un po' chi siete, cosa fate, che cosa avete vinto e poi chiacchieriamo insieme ai ragazzi del Politecnico. Alle 10.30 di questa mattina stavano ancora dormendo, ma hanno assicurato, è solo perché hanno lavorato fino alle 5 del mattino. Raffaele Galliero, Clemente Giorio, Giulio D'Angelo e Ivana Cipolletta sono i vincitori italiani di Microsoft Image Cup 2010, competizione che incoraggia giovani talenti universitari a utilizzare l'immaginazione per, così dicono, risolvere i problemi più ardui del pianeta. I quattro vincitori, studenti della Facoltà di Informatica dell'Università Federico II di Napoli, avranno accesso diretto alle finali mondiali della competizione, che quest'anno si terranno a Varsavia, in Polonia, dal 3 all'8 luglio. Il progetto Lift for You, vincitore della categoria Software Design, consiste in un sistema di ottimizzazione nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, dalla bicicletta all'auto, dalla metropolitana al treno, che, sfruttando anche i più recenti social network, si pone l'obiettivo di ridurre i costi e abbattere l'inquinamento ambientale. Quindi qua erano tutti contenti perché ve ne andate a Varsavia, quindi. Esattamente. Infatti ridevano anche qui il Politecnico, perché non deve essere male. Però non abbiamo vinto soldi. Però voi non avete vinto soldi. C'è tempo. Allora, innanzitutto ricordiamo gli altri membri del gruppo. Lo fai tu, Raffaele? Sì. Allora, c'è Giorgio, Clemente. Sì. Piacere, salve. Proprio ce li presenti tutti così? Sì, sì. Va bene, dai. Io sono Giulio D'Angelo, le passo per me Cipolletta. Salve, buongiorno. Che sei l'unica donna della squadra. Lei sì. Sì, lei, no, immaginavo che tu non lo fossi, diventava complicato. Infatti. Allora, fammi parlare con Ivana Cipolletta. Sì. Ivana, visto che non ci sente nessuno, com'è lavorare con altri tre informatici a un progetto di questo tipo? Di la verità. Abbastanza bello, però pesante. Va bello. Però pesante, vedi che c'era una cosa. Raffaele, spiegaci un po' che cosa vi siete inventati e perché avete vinto. Pronto? Raffaele, la domanda era che cosa avete inventato e insomma quali sono le motivazioni, che spieghiamo un po' meglio il progetto vincitore. Allora. Sì, Lift for You è in sostanza una piattaforma di mobility management che è in grado di fornire uno strumento di atomizzazione per ottimizzare gli spostamenti. Quindi offre tutte le soluzioni a basso impatto ambientale, ad esempio il carpooling, car sharing o comunque il trasporto pubblico, quindi metropolitane e bus. E appunto nasce proprio dall'esigenza che abbiamo qui a Napoli del traffico, il problema del traffico, e quindi la soluzione era diminuire ovviamente le macchine, ovviamente avremo un risparmio sulle emissioni di CO2. Quindi ecco, ma come funziona? Cioè, per far capire agli ascoltatori, come funziona praticamente? Allora, praticamente è un servizio software che è ben diverso da un'applicazione software. Questo non è un tecnicismo, è semplicemente per spiegare che diciamo, il software che abbiamo fatto è un software universale, quindi si possono appoggiare tutti a questo servizio, ad esempio, per dirne una, ad esempio come quello di Google o Microsoft per le mappe. E quindi abbiamo anche integrato con Facebook, proprio perché l'idea era quella di usare i social network come canale di comunicazione di massa e per la fiducia degli utenti. Quindi noi abbiamo fatto anche delle indagini qui a Napoli e i problemi erano proprio la fiducia nel trasportare persone sconosciute, che è stata abbattuta ad esempio con un sistema di feedback, oppure proprio attraverso Facebook, quindi fare carpooling o car sharing con le persone, amici di amici, per poi fidelizzare le persone agli altri utenti, insomma. Ecco, ma a parte Microsoft, a parte il premio, c'è qualcuno che vi dà retta? Cioè, siete andati a parlare, non nel senso buono, cioè nel senso, c'è qualcuno che siete andati a parlare col comune, con gli enti locali? Perché poi quelle sono Sì, dicevano i colleghi di Milano, nel senso che è difficile trovare persone che investano su giovani, specialmente c'è comunque una grossa crisi in Italia, secondo me, su questo aspetto. Quindi abbiamo parlato con persone, però poi fino a quando si tratta di parlare, tutti dicono che è bella questa cosa, funziona bene questa cosa, poi quando si deve mettere mano al portafoglio incominciano ad esserci un po' di problemi, insomma. Ma l'attenzione almeno quella c'è, questa è una curiosità. L'attenzione sì, c'è, ci sono. Cioè, però sono pacchi sulle spalle e basta, qui anche da Milano stanno facendo sì, il gesto. Sì, come uno si aspetta, cioè tu parli, chiedi, ti danno retta fino a un certo punto, poi quando fai le richieste vere e proprie di avere il servizio, di avere le informazioni, tutti o non ti rispondono o le faremo sapere, la frase classica. Ma nessuno vi fa invece il ragionamento, sì, ma dove guadagno, cioè quanto quali sono, avete un business plan? Abbiamo anche proposto un business plan ad alcune aziende per una richiesta di founding, ma anche lì niente. Voi a Napoli? Noi sì, ci abbiamo lavorato e ci stiamo tuttora lavorando a un business plan, però insomma, visto che ora ci aspetta Varsavia, andremo un attimo lì e vedremo. Che però cosa succede? Intanto a Varsavia sarà un momento di gloria e di divertimento, mi viene da dire, no? Sì. Io immagino più di stress. Ah sì? Però ci sarà anche il divertimento sicuramente, sì. Ma ci saranno altre squadre internazionali lì? Cioè, lì saranno 150 team da tutto il mondo. Ah. Beh, ma metti che arrivate primi, cioè... No? Lì allora sì, penso che andate a bussare forte forte con il pugno al comune di Napoli. Sì. Allora, l'ultima parola, allora, noi chiudiamo sempre con un desiderata, nel senso che il primo desiderata, diamo prima la parola al Politecnico di Milano, insomma, proviamo a lanciare un'idea, se avete bisogno, sì, volete dare un indirizzo internet a cui vi possono trovare qualche cosa. Beh, il nostro indirizzo internet è cooltraveling.net, dove tutti possono trovarci, cooltraveling scritto con una sola L, e tutti possono trovarci su questo sito, possono scaricare il nostro widget dallo store Vodafone e noi siamo lì, abbiamo anche un blog. No, perché voi dovete capire, adesso spiego un retroscena, perché già il ragazzo che parla e poi l'amico che gli scrive gli appunti, fa la velina sotto. Mi ricordano che stasera siamo anche a teatro, non si capisce bene perché, però vogliono degli ingegneri a teatro. A Milano, ricordate, sì, quindi sì. Dove vi trovano? Dai, facciamo questo mini spot veloce. Siamo ai Fautori, un teatro che sarà a Milano. Il nome del teatro, Tommaso, tutti. No, non siete preparati, niente, non lo diciamo più. Spazio Napoli, 89. Napoli. Sì. Eccoci. Allora, un desiderata forte, insomma, diciamo qualche cosa di... lanciamo un messaggio, un appello. L'appello è che appunto dal ritorno a Varsavia ci aspettiamo che... Gloria. Investitori. No, più investitori, sinceramente, in Italia. Quindi soldi. Penso che abbiamo bisogno. Soldi, ma per il progetto e anche per noi, ovviamente. Va bene, da Nova Lab un grande in bocca al lupo a tutte e due le competizioni. Voi vi siete ricordati nel frattempo il teatro? Spazio 89, che non esiste secondo me a Milano, però va bene lo stesso. Io ringrazio di aver partecipato alla trasmissione. Domani alle 16.30 Nova Lab 24, arrivederci. Ciao a tutti. Nova Lab 24. Nova Lab 24.